con spirito guerriero. Messa fortificato, ora sono un condottiero. Al comando di un vasto plotone, di un'armata di parole pronte alla devastazione. Hardcore squad, la mia mano si sbriga, come a Kitana Riga scrive un'altra rima. Figa, il tema è una costante. Orbo parla de figa o parla de piante. Si sa com'è, gli piacciono le grasse, così se fuma e se fotte de classe. Sì baby, voglio un culo bello tondo, così andiamo de là e te lo sfondo. Un altro blocco della polizia, io sono un baronetto di periferia. È così che sono cresciuto, se sto con le bestie non ci discuto. Quando sta le stette la rabbia c'è casale, zero freni, parti come un animale. Colpo dopo colpo non ti puoi fermare, se te blocchi non te resta che incassare. Ma che sei scemo, allora chi se ferma? Te mando lungo come conferma. E se non resta più nulla da fare, la pelle è sempre cara, la devi dare.